Salve a tutti, io sono Jasmine, questa è Radio Big World. Benvenuti a una nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlerò dei classici Disney. Oggi parliamo del 13° classico Disney, ovvero Alice nel Paese delle Meraviglie. La storia si basa sull'omonimo racconto o raccolta di racconti di Lewis Carroll. Ed essendo una trama molto vasta, con molti personaggi diversi, Walt Disney fu sin da subito ispirato, tant'è che aveva iniziato la sua produzione dopo Biancaneve. La storia vede come protagonista Alice, che è una bambina che seguendo il Bianconiglio si ritrova catapultata in questo mondo bizzarro dove farà la conoscenza di svariati personaggi. Quindi la trama è molto vasta, ci sono tanti personaggi diversi e gli studios si sono potuti sbizzarrire nel rappresentarli. Però Alice verrà prodotto e distribuito nel 1951, che sarà molto dopo l'uscita di Biancaneve, perché proprio durante quel periodo, quindi della Seconda Guerra Mondiale, negli studios ci fu una certa crisi e molti degli animatori fecero sciopero oppure non c'era un accordo per le animazioni. Quindi, intorno agli anni 50, quando la direzione dello studio passò ai Nine Old Men, furono in grado di trovare un'animazione coesiva per tutta l'animazione di Alice nel Paese delle Meraviglie. L'adattamento compiuto nel ricreare i personaggi, come per esempio lo stregatto, fu sin da subito iconico, dato che le trasposizioni di Alice nel Paese delle Meraviglie non erano poi così diffuse. L'unione quindi di questi bizzarri personaggi con uno stile di animazione nuovo, che era un po' per il tempo psichedelico, resero il film molto peculiare e particolare, tant'è che sin da subito non fu per niente apprezzato dalla critica, dato che Alice nel Paese delle Meraviglie è un libro britannico e quindi molti videro un'americanizzazione da parte del film. Sono molti anni dopo, nel 68, quando c'era il successo dei Beatles e l'uscita del famoso film d'animazione Yellow Submarine, che vedeva queste animazioni appunto psichedeliche, che ricordavano Alice nel Paese delle Meraviglie, questo lungometraggio tornò in auge e fu molto più apprezzato da parte della critica. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa è la Radio Big World e ci vediamo a una nuova puntata di Curiosità Animata.